pas je bruni, e paludo si stagni, mi trascinerà il demonio nella mia vecchiezza, per mostrarmi resti di cadaveri acquatici che ho sulla mia coscienza. Nuotarono sotto a un cielo assai torbido, dentro l'inferno con fare stanco e come un intreccio di alghe. Vogliono essere tutte segnate sul mio conto, sul mio conto. Corpi mi diedero il fuoco un tempo che fui io ad accendere, quelle che con me hanno goduto il giorno del colore d'arancia si sono sottratte alla notte oscura, finite le pelle mangiate, sazie e comode, mi hanno sospinto per pigrizia in questo tormento morale, mi hanno sporcato. La terra ha fatto il cielo più torbido, lasciandomi un corpo in fiamme, nessuno.